Scende sotto quota 100.000 il numero di attualmente positivi. Certo, è solo un numero, una soglia psicologica, come si dice, ma che fa ben sperare all'apertura di questa fase 2, i cui effetti vedremo tra un paio di settimane. Qualche episodio di affollamento, ma nulla di ingestibile. E l'attenzione che resta alta. Già si parla delle prossime riaperture, forse palestre e centri sportivi dal 18 maggio, in alcune regioni parrucchieri ed estetisti in anticipo rispetto all'inizio di giugno. Vedremo, così come vedremo cosa succederà con le scuole. Ieri la ministra dei trasporti, De Micheli, ha fatto balenare l'ipotesi di una parziale riapertura. L'attenzione è però puntata insieme sulla questione sanitaria e su quella economica. Secondo Confindustria, negli ultimi 2 mesi la produzione si è dimezzata e si ragiona in queste ore sul famoso decreto aprile, che poi arriverà in maggio. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. Continuiamo con i Rolling Stones, anche se ormai non sono più città fantasma le nostre città, hanno ricominciato a popolarsi, in parte, con mascherine, distanze, parchi un po' più pieni. Eccoci, è 24 mattino, sono le 6:31 minuti di martedì 5 maggio. La task force di questa mattina è composta da Carmelo Lauricella in regia, Miriam Lucchetti e Giorgio De Luca in assistenza in redazione, poi tutta la squadra, Gloria Guerrera, Alessandro Marco Tulli in redazione, Francesco Ceraffo, Margherita Ina, i nostri autori. E la vera task force che siete voi, i nostri affetti stabili. ...349-238-6666... come sempre, per farmi sentire la vostra voce. Allora, com'è andato questo 4 maggio, questo inizio di fase 2? Com'è andata ieri? Ah sì, siamo usciti in parte, in parte no, ma alcuni sono rimasti a casa, alcuni hanno ripreso a lavorare, molti già lavoravano da prima e molti purtroppo il lavoro non lo ritroveranno. Ed è questo il grande tema, eh? E il grande tema è anche: ma questi soldi quando arrivano? Questi benedetti 600 euro per gli autonomi, questa cassa integrazione che fatica? Ci arriviamo tra un attimo, cercheremo di capire, perché molti di voi ci hanno scritto: come mai? Sono qua che aspetto e questa cassa integrazione non arriva. Ne parliamo tra un attimo. Oh, poi c'è tutta una questione politica, non l'ho messa nell'introduzione, ma ormai la conoscete perché l'abbiamo affrontata ieri, questo scontro che sta, diciamocelo, un po' mettendo a rischio anche il ministro della giustizia Bonafede. Ha a che fare con le dichiarazioni del PM Nino Di Matteo, che insomma è una vera e propria icona, tra l'altro, per il Movimento 5 Stelle, quindi politicamente è qualcosa di importante. Di Matteo, che ha fatto balenare l'ipotesi che Bonafede, il ministro della giustizia, abbia rinunciato a nominarlo alla guida delle carceri su, per così dire, minaccia o segnalazione da parte dei boss mafiosi. Bonafede replica indignato: noi siamo sempre stati contro la mafia, di cosa stiamo parlando? Io gli avevo proposto due cose, o il DAPO, la direzione affari generali del Ministero della Giustizia, e in sostanza è lui che ha rifiutato. Vedremo. Allora, però iniziamo, e questa è una questione, se vogliamo, laterale, centrale politicamente, ma laterale rispetto a tutta la questione Covid-19. Da cosa iniziamo? Iniziamo da Luca Zaia, che chiarisce abbastanza bene che con il fatto che la sua ordinanza, l'ordinanza regionale è un po' più lasca, quella del Veneto, e il governo stesso e i nuovi provvedimenti del governo, beh, insomma, se non è un liberi tutti, poco ci manca. L'ordinanza che ha aperto, diciamo, in maniera importante del 10 aprile, cioè per noi il lockdown è finito il 10 aprile. In 24 giorni noi abbiamo avuto una discesa di valori. A questo mezzo lockdown se ne aggiunge la fine del lockdown. Io oggi direi che ufficialmente finisce anche quel po' di lockdown che c'era, no? Restano ovviamente alcune attività che sono i commercianti, molte altre attività, i ristoranti, i bar, però è pur vero che i cittadini, questo non interessa, escono di casa. Quindi vuol dire che di fatto veramente è liberi tutti. Per cui questo è il banco di prova importante. Così Zaia. Milano, il sindaco Sala. Sono le 9, abbiamo fatto il punto dopo prima fase critica, quindi in particolare dalle 7 alle 8, ma diciamo dalle 7 alle 9, e la situazione stamattina è stata ampiamente sotto controllo, il che ci porterà ad anche maggiore attenzione nei prossimi giorni. Ma in sostanza la preoccupazione per la ripartenza c'era e il servizio è stato buono, ma soprattutto i milanesi si sono comportati in maniera molto diligente. Così Milano. A Napoli, dice Luigi De Magistris, la fase 2 è iniziata bene. Finora è andata bene, nel senso parchi, cimiteri, lo stesso trasporto pubblico locale, almeno quello che sì, ci siamo visto, noi ho visto comune. Dei problemi sulla Circumvesuviana, le avrà viste anche lei le immagini, no? Sì, quella è gestita dalla Regione Campania, dall'EAV per la verità, quindi non è una gestione comunale. È sempre un po' di frecciatina su De Luca, c'è sempre, da De Magistris. Poi ne sentiamo un'altra sul tema dei tamponi e dei rientri a sud. De Magistris, che dice? Ho chiesto più controlli, sentiamo. Lei i parchi li ha riaperti? Sì, i parchi sono aperti, i cimiteri sono aperti, le persone quindi possono camminare e andare dai prossimi congiunti, distanziamento, mascherine. Ho chiesto alle forze di polizia di effettuare più controlli per evitare gli assembramenti, e quello è il rischio. I rientri, qua, anche qua le regioni si stanno muovendo in modo diverso, e anche qua frecciatina di De Magistris su De Luca. Alle persone che rientrano bisogna fare, non basta prendere la temperatura, bisogna fare qualcosa di più. Se noi scarichiamo sempre sul singolo cittadino di doversi mettere in autoclausura e reclusione, e non abbiamo ancora un sistema, dopo tanti commissariamenti e soldi spesi per fare un prelevamento a tampone su 3 treni che arrivano da Milano a Napoli, consentitemi, è un po' preoccupante prepararci in questo modo alla fase 2, non so più come dirlo. Noi abbiamo da 10 giorni a Napoli la media di 6 positivi al giorno, cioè siamo quasi verso il contagio zero. Com'è possibile che non si riesce a prevedere un controllo almeno sui treni, gli aerei, gli autobus di linea? Credo che sia poco il termoscanner dopo 2 mesi. Questa è la mia valutazione. E qua un ascoltatore scrive, dice Sala che i milanesi si sono comportati bene, tipo Max da Crema, scrive, tipo quelli che ballavano in strada, perché ieri si sono viste queste immagini, sono girate su Facebook, della gente che ballava in strada. Erano tutti praticamente distanziati, avevano tutti la mascherina, festeggiavano la fine di questo isolamento. Io ho la croce addosso a questi, non me la sento di gettarla, lo sapete, devo dirvelo francamente. Poi è chiaro che se si ficcano in una stanza chiusa in 80 e ballano strusciandosi, beh, è chiaro che è un altro conto, ecco, però... Là, in strada, all'aperto, distanziati, con le mascherine, su, un po' di indulgenza, che qua in Lombardia, e Max lo sa benissimo, siamo sbarrati dentro da 2 settimane prima di tutte le altre regioni, Caro Roberto Arditti, direttore editoriale di formiche.net, come stai Roberto? Buongiorno. Buongiorno. Meno male che c'è ancora qualcuno che ha voglia di ballare per strada, quindi viva i balli per strada e tutti quelli che vi si oppongono secondo me si devono dare un po' una calmata emotiva, eh? Sì, un pochino sì. Tra l'altro, chissà, mi stavo chiedendo, visto come siamo tutti ridotti dal punto di vista fisico, chissà come sono rientrati con le gambe distrutte dopo quei 10 minuti di ballo, chissà. Appunto, tutti quanti un po' più sereni, sì, il sindaco di Napoli, che mi sta anche molto simpatico, tra l'altro, non è che se la circumvesuviana è gestita dalla regione segue regole di contagio potenziale del virus diverse. Certo, tutto sommato. Ecco, il virus se ne frega di chi è il gestore di questa o quell'altra linea. Quindi, sì, se la gente si affolla è un problema comunque, insomma. Appunto, quindi queste distinzioni in questo tempo in cui che stiamo vivendo forse potremmo evitarle. Sì, tutto sommato sì. Allora Roberto, chiaramente una prima prova che tutti i giornali dicono, questa prima prova è andata bene nelle città eccetera, la realtà è che giudicare tutto al primo giorno è perfettamente inutile, lo vedremo nell'arco del prossimo paio di settimane e poi con i numeri che avremo tra 2 settimane, no? Questo senz'altro, però io dico anche onestamente, come peraltro sta accadendo in molti paesi in giro per il mondo, siccome voglio ricordare che di grave crisi economica si muore purtroppo come dei virus, io credo che noi con intelligenza, come peraltro intelligente è stato il comportamento degli italiani in questi 2 mesi, onestamente, dobbiamo riavvicinarci a un percorso di normalità. Che naturalmente non significa negare l'esistenza del problema virus, che continua ad esistere, esisterà, credo ci accompagnerà per un tempo non breve, probabilmente anche in autunno, magari con delle ricadute, però è anche altrettanto vero che dobbiamo recuperare una vita economica e sociale con tracce di normalità, nelle quali fare ogni sforzo di cautela e di attenzione, che è innanzitutto uno sforzo personale, anche perché, scusa Simone, abbiamo anche visto, al netto del fatto che secondo me tutti i governanti hanno fatto a tutti i livelli gli sforzi che potevano fare, a volte meglio, a volte peggio, che provare a disciplinare per DPCM gli affetti stabili, sì, alla fine poi non è che funziona granché, no? Per fortuna. Quindi c'è un grande tema di responsabilità personale che riguarderà ad esempio quest'estate le spiagge, le discoteche, tutti i luoghi di aggregazione. Ci dovremmo tenere tutti quanti un occhio, innanzitutto per la propria salute e per quelle di tutti i vicini. Dovremmo imparare a convivere con tutto questo. Sì, non c'è il minimo dubbio. Guarda, mi veniva, nelle scorse ore, mi veniva l'idea di un paragone che forse è azzardato, e però tutti, forse ci siamo quasi dimenticati di quel periodo. Vi ricorderete gli attentati alla metropolitana di Madrid? Vi ricorderete gli attentati alla metropolitana di Londra? Quando dicemmo che appunto nulla sarebbe più stato come prima e tornare alla normalità sarebbe stato praticamente impossibile, certo là ovviamente c'era da sconfiggere un nemico che, del quale in parte conoscevamo la faccia, no? Anche se non completamente, però no, c'era quest'idea di non farsi sconfiggere da questo nemico che ci voleva mettere paura, però per certi versi insomma non so se lo trovi calzante l'esempio, Roberto, magari. Ma certo. Abbiamo bisogno di recuperare, abbiamo bisogno di imparare tante cose. Abbiamo per esempio bisogno di riscoprire sul fronte della salute un ruolo di quella che, con un'espressione che io non amo, della medicina di base, che è invece fondamentale, e molti il medico di famiglia deve ridiventare, cosa che in Italia si è un po' persa secondo me, facendolo diventare quasi più il soggetto a cui chiedere di fare le ricette, diciamola male, sì, è così, sì. Però, che però ci capiamo e poi la diciamo male, ma diciamo anche un po' la verità, e invece quei grandi professionisti della medicina di base, che è il medico di famiglia, devono ridiventare l'interlocutore prioritario. L'ospedale è l'estrema ratio della cura, e tant'è vero, Simone, sì, che nella seconda fase, più aprile che marzo, stiamo vedendo che funziona molto meglio curare la gran parte dei pazienti anche di coronavirus, evitando loro di andare in ospedale. Sì, stiamo imparando tante cose in questa fase. Tanto l'ospedalizzazione ha fatto tanto, l'ospedalizzazione eccessiva ha fatto tanto nella diffusione del virus, e insomma molte colpe si sono appuntate su questo. Quando andremo a vedere le responsabilità anche politiche su questo bisognerà ragionare. Responsabilità, non colpe, non è necessariamente che questa roba debba finire nel penale, però un ragionamento sulle responsabilità politiche tanto del governo quanto delle regioni su come è stata gestita questa emergenza a un certo punto andrà fatta. Sul ragionamento che faceva Roberto Arditi, ieri è tornato a intervenire Matteo Renzi, no? Gli affetti stabili, congiunti, ma insomma trattateci da adulti. Se voglio incontrare il mio migliore amico anziché il cugino del bisnipote di mia sorella che sta con mia zia, saranno fatti miei. Questo è il concetto, la libertà non può essere messa in discussione. Tu mi puoi dirle, poi lasciami, trattami da adulto, non mi trattare da bimbo. Insomma, anche qua un po' di politica si intravede, perché l'insofferenza di Italia Viva nei confronti dell'esecutivo e della gestione di questa crisi da parte dell'esecutivo, no Roberto, è palpabile, direi, sia dal punto di vista di queste cose qua, sia dal punto di vista economico. Lo è, lo si è visto molto bene nel discorso che Matteo Renzi ha fatto in Parlamento la settimana passata. Anche qui naturalmente tutti sono chiamati anche a un grande, insomma, a fare uno sforzo per agire responsabilità. Vorrei dire che in termini di fantasia nelle geometrie politiche questa legislatura ha già dato molto, perché abbiamo visto cose abbastanza esoteriche, se le guardiamo con quello che si diceva fino a prima delle elezioni. Quindi ecco, adesso però, siccome davanti a noi abbiamo un secondo semestre dell'anno che nella migliore delle ipotesi sarà difficilissimo, ma è la migliore delle ipotesi per quanto riguarda lavoro e tutti gli altri aspetti della vita economica, chi è in Parlamento e al governo ha il dovere, diciamo così, di non scherzare proprio questa volta, perché non c'è veramente niente da scherzare. Ricordiamoci che l'Italia è un paese esportatore e che vive di turismo. Sì. Le esportazioni per la condizione generale dei mercati internazionali e il turismo sono tra i due pezzi più soggetti a difficoltà nel periodo che abbiamo davanti dell'economia. Quindi vediamo di stare tutti molto seri, molto concentrati, non ci possiamo permettere errori, perché la situazione non sarà facile da gestire. Sicuramente. Allora, il traffico, poi veniamo all'aspetto economico e anche alle difficoltà economiche delle singole persone, correlate al fatto che in parte i soldi non stanno arrivando. Mattino. Tra l'altro, per gli amanti di questi dettagli, tra l'altro me lo scrive anche un ascoltatore, il video di Milano, quello nel quale c'è la gente che balla, è antecedente, cioè del giorno prima, è delle 18 del 3 maggio, quindi pre-fine del lockdown. E però è stato, insomma, la polizia ha identificato la persona che ha messo questa musica, è una donna di 35 anni, no, ha detto non ho organizzato l'evento, ogni giorno alle 18 metto sempre la musica con le casse alte nella strada, un modo per farsi coraggio per intenderci, e nella giornata di domenica alcune persone sono scese per strada e hanno iniziato a ballare su questa musica, per sempre per gli amanti dei dettagli. I soldi che non arrivano in queste ore in molte televisioni, e poi qualcosa avete sentito anche qua su Radio 24, le file delle persone alla Caritas, la gente che chiede i pacchi di pasta, la difficoltà economica che inizia a farsi sentire in maniera più pressante, che aveva pochi risparmi, se li ha bruciati in questo mese, e adesso che l'economia è sostanzialmente ferma e si prepara a ripartire, si aspettano degli aiuti. I famosi 600 euro per gli autonomi, in parte erogati, in parte no. Ci sono stati 225.000 mancate erogazioni per errori di IBAN. Che poi un po' io stupisco, lo Stato, l'amministrazione statale all'IBAN di ciascuno di noi, in sostanza. Però, vabbè. E qua è sempre il tema di integrazione delle banche dati. E poi le cassa, la cassa integrazione, soprattutto quella in deroga che non arriva, soprattutto l'anticipazione che dovrebbe arrivare dalle banche che non arriva, e molti di voi ce lo hanno segnalato. Siamo in linea con Michele Faioli, che insegna all'Università Cattolica di Milano, è consigliere del CNEL. I suoi argomenti di elezione sono questi, è un giuslavorista. Faioli, buongiorno, benvenuto, eccoci. Buongiorno, buongiorno. Allora, cosa succede? Cosa succede? Come mai sui conti correnti delle persone non arrivano i soldi? Beh, bisogna tenere in considerazione che da marzo sono state introdotte delle regolazioni, delle norme a livello nazionale, prima regionale e poi nazionale, che sono state un po' dettate dall'emergenza, e proprio per questa ragione c'è stata qualche complicazione nella fase applicativa. Quindi non scritte benissimo, Faioli, non scritte benissimo, diciamo. Beh, direi dettate dall'emergenza. Mettiamola leggera. Sì, quando si fanno le cose in emergenza, diciamo, non... E questo è un primo punto, no? Sì, questo è un primo punto, quindi così. Poi c'è probabilmente un secondo elemento che va tenuto in considerazione. Queste leggi, per essere bene applicate, hanno bisogno di infrastrutture tecnologiche importanti, e il nostro paese, insomma, questo si sa, a livello così di sistemi digitali, insomma, non brilla particolarmente. E questo secondo me è un secondo fattore da tenere in considerazione. Allora, quando la legge è stata fatta, poi passa attraverso, chiamiamo così, questi canali digitali, e i canali digitali non riescono a reggere il peso delle numerose domande, insomma, rispetto al passato, e questo crea un elemento ulteriore, diciamo, di crisi. Certo. Poi, sì, prego. Vado avanti. Poi immagino che l'INPS, ieri ne abbiamo parlato con la ministra Catalfo, no? Che l'INPS sia stata caricata forse di un lavoro, no? Cioè la gestione di tutte queste pratiche contemporaneamente può aver creato un problema. Sì, allora, perché ci sono delle integrazioni salariali che vanno direttamente verso l'INPS, quindi insomma da datore di lavoro all'INPS, e poi ci sono altre integrazioni salariali, quelle famose in deroga, che passano prima per la regione e poi arrivano all'INPS, quindi lei può capire che c'è un doppio rubinetto, insomma, quindi a questo punto c'è un doppio blocco, perché se la regione non ha un sistema digitale ben funzionante, blocca in un primo cancello, diciamo, la domanda, bisogna lavorarla, e poi a un certo punto arriva all'INPS, che è un secondo cancello. Sì. Superato questo secondo cancello, arriva, diciamo, al lavoratore, quindi lei capisce che sono in alcuni casi probabilmente si poteva anche evitare, insomma, di fare questo doppio giro. Sì. Faioli, qua ci sono regioni che si distinguono per essere andate più veloci di altre. Sì, effettivamente sì. I dati che noi conosciamo, quelli ufficiali, semiufficiali, poi lei sa meglio di me, insomma, ci sono poi dati diversi a seconda delle fonti, però diciamo quelli semiufficiali o quasi ufficiali ci dicono che ci sono delle regioni che hanno fatto molto meglio, tra queste brilla particolarmente l'Emilia Romagna, che aveva un sistema digitale già in qualche modo provato negli anni scorsi, e che quindi è stato probabilmente facile rimettere su e utilizzare per questa vicenda pandemica. Pare che anche il Lazio abbia dato dei buoni risultati. I dati sulla Lombardia sono strani, in realtà non si riesce a comprendere bene se è un fatto tecnologico oppure se effettivamente la procedura che è stata negoziata a livello regionale con le parti sociali è eccessivamente complicata. Ora queste cose le capiremo tra poco. Ci sono dati diversi però, ecco, la regione dice che sta risolvendo tutti i problemi, che ha analizzato tutte le domande, ha fatto le istruttorie, però i dati ufficiali sembrano in realtà un po' deludenti, sì. Non so, insomma, queste cose le capiremo un po' alla volta. Un po' alla volta, qua ascoltatori che ci scrivono, allora, uno che ci dice: io sto aspettando la cassa in deroga, io aspetto due mensilità della cassa in deroga, lo Stato non provvede, le bollette della rata della macchina arrivano puntuali. Poi c'è tutto il tema degli ascoltatori, ci scrivono dei famosi 600 euro, che questo è tutta un'altra partita. Ho fatto domanda per il bonus il 1° di aprile, l'IBAN è corretto, ma ad oggi non ho ancora ricevuto nulla, scrive Alessio. Ancora, mia moglie sta ancora aspettando la NASPI di aprile, siamo in ritardo di quasi un mese. Questo è un po' il quadro generale. Poi ci sono ovviamente operazioni che sono andate bene. E poi c'era tutto il tema Faioli dell'anticipo della cassa integrazione da parte delle banche. Anche là mi sembra che non siano andate benissimo le cose. Ahimè sì, lei sa, si ricorda a fine marzo c'è stato un negoziato importante tra ABI, che ha messo a disposizione ovviamente insomma la propria struttura e tutte le banche associate ad ABI, il sindacato e le organizzazioni datoriali, tra cui Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, gli artigiani, CNA, eccetera. Il problema che si pone è che quella procedura negoziata con il governo, tra governo e parti sociali e ABI, se sulla carta sembrava in qualche modo essere abbastanza semplice e anche orientata a semplificare la vita dei poveri lavoratori che si trovano così, poi nella pratica, cioè quando arriva sul desk dell'impiegato di banca, di provincia o di città, trova una serie di complicazioni applicative, perché poi per ragioni diciamo di garanzia dell'asset bancario si chiedono una serie di documenti, di informazioni, insomma, e questo complica ulteriormente le cose. Caro Roberto Arditi, anche qui c'è un problema tecnologico, anche qui. Roberto Arditi, qua mi sembra il problema standard italiano, cioè un problema per così dire di burocrazia, di procedure, oltre che ovviamente c'è una questione tecnologica, come ci diceva Faioli, che mi pare evidente, però insomma qua c'è una questione di procedure forte. Il professore è molto elegante in quello che dice ed è tutto giustissimo. Io mi permetto due velocissime osservazioni. La prima, a meno che io non mi sia perso qualcosa, io non credo che abbiamo mai imparato in questa storia che il coronavirus avrebbe trasformato gli italiani in norvegesi. No, perso io? No, decisamente no. Ecco, quindi gli italiani, eravamo italiani prima dell'arrivo del virus, siamo italiani in questa fase e lo saremo anche dopo. Quindi, come sempre, facciamo le cose come le facciamo noi. E noi le facciamo così, perché siamo fatti così. Secondo punto, sveliamo a chi ci ascolta un grande segreto della finanza pubblica. Se un provvedimento di legge che prevede un costo di una certa cifra, ha esteso a tutta la platea, vale quella cifra. Se poi nell'applicazione tutto diventa più lento e faticoso, molto spesso si finisce per spendere meno di quello che era l'importo di partenza. È uno dei grandi, no? Beh, il sospetto che è una quasi certezza di Roberto Arditi, non è male. Attenzione su questo. Ottimo punto, Roberto, e con questo ti saluto. Grazie Roberto Arditi, direttore editoriale di formiche.net. Grazie Michele Faioli, che insegna all'Università Cattolica di Milano ed è consigliere del CNEL. Fa notare un ascoltatore, dice: "È però quando ci hanno dovuto prelevare i soldi dal conto corrente, lo ricordate? L'IBAN lo conoscevano benissimo, lo Stato, l'IBAN lo conosce benissimo. Adesso che 225.000 domande per i 600 euro siano state respinte per un errore sull'IBAN, ragazzi, forse non so se la cosa si poteva far gestire, come ci scrive qualcuno, dall'Agenzia delle Entrate, che tutti i nostri dati li ha invece che dall'INPS. L'INPS è più titolato, no, dal punto di vista di quello che deve fare. E poi c'è chi li ha ricevuti, come Massimo Artigiano, si definisce servitore dello Stato, i 600 euro, dice: li ho ricevuti, ho pagato tutti i miei fornitori. Dai Massimo, dai. GR24, ci ritroviamo subito dopo con la rassegna stampa.